Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Deborah? Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono? Sì. Visto quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere di sentirla. Anche per me, grazie Cristiano. E a me non mi saluta Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. C'è Federico, allora. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, è lei, è Federico. Proprio lei, guarda. Buongiorno, complimenti. Oh, buongiorno. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, si parla solo con i numeri. E a volte i numeri aiutano a raccontare più delle parole. Hai fatto 30, fai 31, no? Deborah, si dice quando si è fatto una certa si quantità tanto, di cose. Già che ci sei, vai, dai. Un sei, pelino in più. Certo. Oppure 100%, mm-hmm. Quando insomma si dà il tutto per tutto. Ancora 448, come dici tu, no? Veloce. Pensavo il 4x4 degli affitti. Pensa tu che associazione mentale che ho avuto. Allora, la puntata di oggi parte proprio da un numero. 110 lode, che è il numero che esprime il massimo dei voti, ma che il titolo di un convegno di cui vogliamo parlare oggi, perché ci offre lo spunto per parlare di un tema che ci sta particolarmente a cuore, un tema delicato, difficile, che tendiamo spesso a evitare, a mettere da parte, ma che fa parte della vita e che può entrare all'improvviso nelle nostre vite trasformandole. Parliamo di malattia, di quell'evento che ribalta priorità e prospettive, che costringe ad affrontare un nuovo percorso, proprio a cambiare programma. Diventiamo improvvisamente protagonisti di un'altra storia in cui però vengono coinvolti altri attori, i nostri familiari, gli amici, quelli che ci stanno accanto e poi il nostro medico curante, altri medici, tecnici, infermieri. Entriamo insomma in un microcosmo, una sorta di universo parallelo che ha dinamiche e regole che spesso non condividiamo, che avvertiamo come strane, a cui vorremmo ribellarci e che ci fanno sentire ai margini. Questa è una sensazione che genera malessere, che rende ancora tutto più difficile. Allora oggi, insieme a Deborah, vorremmo che il nostro numero verde diventasse, per voi che ci ascoltate, che avete vissuto, state vivendo un'esperienza di malattia direttamente o indirettamente, perché a cambiare la vita può essere anche la malattia di un nostro familiare, diventasse un'opportunità per raccontare se e come nella relazione con il vostro curante vi siete sentiti al centro o ai margini. E vorremmo anche che ci diceste quale attenzione, gesti e parole vi hanno aiutato ad affrontare la malattia, non solo nel corpo ma anche nella mente, nello spirito. Recenti studi nazionali e internazionali mostrano come la maggior parte dei pazienti intervistati dichiari di non essere soddisfatto della relazione con il proprio medico, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento nella scelta del percorso terapeutico. Oggi affronteremo il tema della relazione, allora avete sentito anche nel preambolo che Nicoletta ci ha appena fatto, e lo faremo anche guardando l'altro lato della nostra medaglia, quello dei denari. Il nostro medico ha a cuore la nostra salute, ma prima di tutto noi stessi dobbiamo averla a cuore, e non è sempre facile. Quando non stiamo bene dobbiamo prenderci cura di tanti aspetti e a volte non ci sentiamo pienamente liberi delle nostre scelte, e questo può accadere se sono proprio i denari a preoccuparci, i denari che ci arrivano dal nostro posto di lavoro, che può essere una fonte di reddito più o meno sicura che la malattia può mettere in difficoltà. In questo ha un ruolo chiave il rapporto con il nostro datore di lavoro, ma anche la conoscenza dei nostri diritti come lavoratori in questa situazione momentanea, si spera, di difficoltà. Allora parleremo anche di questo nella puntata di oggi di Cuore e Denari, ed è un discorso che vale anche per chi non pensa alla sua salute ma a quella di una persona cara, e sappiamo che anche curare un familiare comporta rinunce, difficoltà e situazioni complesse da gestire sul posto di lavoro. Allora 800 24 00 24, raccontateci se vi siete mai trovati di fronte a situazioni di malattia serie che hanno provocato assenze prolungate dal posto di lavoro, malattie che croniche sono arrivate a compromettere il vostro rapporto con il datore di lavoro. Come avete gestito queste situazioni? Proviamo, se volete, anche a giocare un po' con le parole. Definite con un aggettivo la relazione con il vostro datore di lavoro in quei casi. Sappiamo che arriveranno aggettivi più o meno positivi. Potete anche scriverci, se volete, un SMS al 349-238-6666 o su Facebook o Twitter. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Se si cura la malattia si vince o si perde, se si cura la persona si vince in qualunque caso. 800 24 00 24, è stata curata la vostra malattia o il vostro curante si è preso cura di voi come persona? Raccontatecelo. Intanto tra poco vi racconteremo di un convegno che si svolgerà lunedì a Milano e che ha dato lo spunto per questa trasmissione. Intanto facciamo un saluto ai nostri ospiti. Certamente. Che ci hanno raggiunto in studio. Studio affollatissimo questa mattina, allora comincio con il salutare l'unico uomo che si deve confrontare questa mattina con questo gruppo di donne, l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista esperto del Sole 24 Ore sulle tematiche del lavoro a 360 gradi. Questa mattina gli abbiamo chiesto di cimentarsi su questo tema molto delicato, malattia sul posto di lavoro, come ci si comporta anche con il datore di lavoro in questi casi. Benvenuto. Grazie, grazie. Benvenuto. Le chiediamo subito, avvocato, di coinvolgere i nostri ascoltatori, magari suggerendo uno spunto di riflessione, di rispondere magari ad una domanda, di raccontare la loro esperienza. Quale parole utilizzerebbe per coinvolgerli? Beh, sicuramente una parola che viene spesso usata in questi casi è quella di mobbing. Mobbing, stress e il rapporto con il luogo di lavoro, diciamo. Credo che sia una parola usata abbiamo e forse anche abbiamo subito abusata. Dato un bel pugno nello stomaco, insomma, perché non è che abbiamo utilizzato come esempio una questione semplice, no? È piuttosto delicata. E forse anche un pochino abusata, però diciamo ricorre ormai sempre in tutti i discorsi lavorativi, diciamo. Dottoressa Luini, ben ritrovata anche lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei invece che immagine ci darebbe per descrivere, come dire, immagino che per voi medici, come dire, descrivere relazione con il paziente. In realtà si apre un mondo, sì, no? In realtà avete già usato la parola che mi piace, persona e non paziente, persona. Questa è la mia parola di oggi. E abbiamo il piacere di avere qui con noi una new entry, questa ci piace, la dottoressa Chetti Mazzocco, che è psicologa all'Università di Milano e all'OIEO. Buongiorno. Grazie per avermi accolto qui, buongiorno a tutti. Anche a lei chiediamo di rivolgersi ai nostri ascoltatori per coinvolgerli in questa riflessione a voce alta, che è molto faticosa, perché parlare di malattia vuol dire parlare di sofferenza, accettare dei cambiamenti che a volte sono davvero dolorosi. E come avvertiva e anticipava l'avvocato Falasca, dobbiamo anche affrontare delle situazioni in cui ci sentiamo ancora più vittime. La dottoressa Luini ha sottolineato la parola persona. Io credo che sia molto importante il lavoro che come psicologo lei svolge, proprio per sostenere le persone che si trovano ad affrontare un compagno di viaggio che a volte può essere molto faticoso e invadente come la malattia. Certo, persona è la parola più giusta per identificare il paziente al centro della cura, e della cura dove avete implicati non solo medici, ma appunto, come diceva Nicoletta prima, infermieri, tecnici, psicologi. E una persona ha diritti e doveri, il diritto di farsi curare e di chiedere cure a chi si deve occupare di lui, ma anche doveri, e qui entriamo in un campo di responsabilità dove a volte, o comunque soprattutto in passato nella medicina paternalistica, questa responsabilità era stata tolta al paziente. Quindi questo secondo me è il punto di riflessione per i nostri ascoltatori, se si sentono responsabili, e per raggiungere questa responsabilità dobbiamo passare attraverso un concetto di autonomia del paziente. Abbiamo, a proposito di medici e pazienti, di malattie, di dolore, tre libri che la dottoressa Luini ci ha portato, libri che a me e a Deborah sono piaciuti in modo particolare. Ma anche a degli ascoltatori, perché qualcuno ce l'ha proprio esplicitamente chiesto, per cui gentilmente la dottoressa Luini ha rinfrescato la nostra libreria, quella di Cuore e Denari, per questa mattina. Abbiamo tre libri a disposizione, Il male dentro, che potremmo... A chi possiamo donare? Ecco, a cosa possiamo pensare? Rifacciamoci un po' al 110 e lode, che è il titolo di un convegno di cui parleremo tra poco, che ha dato lo spunto della nostra trasmissione, un bel voto 110 sì. lode. Sì, il massimo, il più bello. Quindi tre libri a chi? A tre storie da belle, 110 lode? Sì, tre storie da 110 lode, ricordi, relazioni, cose che ci facciano sorridere bene pensando alla salute o anche alla malattia. Allora, 110 lode, 110, la somma dei 90 anni dell'Università degli Studi di Milano e i 20 anni dell'Istituto Europeo di Oncologia, lo IEO, uniti insieme per promuovere un cambiamento. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Gianluca Vago, rettore dell'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi. Buongiorno e benvenuti. Benvenuto. Un convegno, professore, in cui partirà la proposta per un radicale mutamento di prospettiva nella relazione medico-paziente. Ci vuole raccontare? Sì, volentieri. È stata una scelta appunto per celebrare un po' le nostre storie, le storie della statale e dell'Istituto Europeo. Ed è stata una scelta un po' insolita forse, anche per la tematica che abbiamo deciso di affrontare e di discutere, anche per la struttura stessa del convegno. Forse il segno principale di quello che stiamo raccontando e che voi state discutendo è proprio l'avere costruito il convegno anche sulle esperienze di persone, pazienti, malate che racconteranno di sé e della loro malattia, anche l'avere centrato il convegno su un tema che è quello del dolore, che è stato appena ricordato, anche questo non consueto, mettiamolo così, nelle nostre aule, e forse il significato fondamentale di questa decisione è proprio qui, cioè noi riteniamo che sia necessario un ripensamento radicale appunto dell'impostazione dei nostri percorsi di formazione e di studio, perché pensiamo che sia radicalmente mutato il mestiere del medico, pensiamo che ci sia un rischio che è stato ben commentato da uno storico della medicina, Giorgio Cosmacini, cioè che stia scomparendo la figura del dottore per mille motivi che adesso forse non abbiamo il tempo di discutere, ma è cambiata proprio tutto. La medicina di oggi è qualcosa di radicalmente diverso da quella di 20 anni fa, 30 anni fa, per i cambiamenti tecnologici, epidemiologici e organizzativi che sono avvenuti. E noi pensiamo che per quello che possiamo fare noi, che dobbiamo fare noi, cioè formare tutti gli operatori sanitari, che è poi la nostra responsabilità, sia necessario appunto introdurre dei cambiamenti anche molto significativi nell'impostazione che diamo alla formazione medica. La cosa più importante in medicina non è tanto la malattia di cui il paziente è affetto, quanto la persona che soffre di quella malattia. Deborah, quando diciamo che Ippocrate era avanti davvero, perché lui aveva già capito tutto. In questa frase racconta in modo chiaro, preciso, quello che poi è stato affidato a tanti slogan: emancipazione del paziente, medicina partecipativa, scelta condivisa. Finalmente ci stiamo arrivando, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma qualcosa sta cambiando, l'anticipava il rettore, ma insomma tra poco queste parole diventeranno realtà, si concretizzeranno. Dottoressa Chetti Mazzocco, ci state lavorando con dei progetti molto interessanti. Sì, non staranno per diventare realtà, ma sono già in fase di realizzazione. Diciamo che per rendere il paziente responsabile, quindi permettergli di rispondere ai doveri che ha rispetto alla propria salute, noi dobbiamo renderlo autonomo, passare un po' di potere, e per fare questo abbiamo bisogno di assicurarci che lui abbia consapevolezza reale e piena della sua condizione e tutte le informazioni che passano dal medico al paziente. E in questo senso, nel momento in cui c'è una reale consapevolezza e conoscenza di quello che sta accadendo, allora lì possono agire su un piano condiviso e scegliere in modo sincrono, diciamo così. Quindi noi possiamo possibili. Chiedere, lo chiedono i nostri esperti, oggi ai nostri ascoltatori dire se state attraversando un momento di difficoltà, se avete una relazione difficile con il vostro medico, se non riuscite a sentirvi al centro, vi manca qualche cosa, chiamateci perché vi metteremo a disposizione l'esperienza e i consigli dei nostri esperti, perché la relazione è un po' come una partita tennis, no? Tutte e due devono, i giocatori devono lanciare la pallina dall'altra parte, bisogna intendersi. Le responsabilità, tutte e due gli attori della relazione hanno dei diritti e dei doveri, li metto tra virgolette perché quando si parla di malattia sembrano parole fuori luogo, ma insomma il medico deve fare la sua e il paziente anche deve informarsi, ciascuno deve mantenere il proprio ruolo ma in sinergia. Vorrei tornare un attimo solo dal professor Vago, formerete quindi medici più attenti anche alla persona, capaci, come diceva Patch Adams, a migliorare la vita del paziente e non solo a curare la sua malattia? Sì, l'idea è un po' questa, adesso anche in questo caso dei tentativi sono stati fatti, io credo che però sia appunto necessario proprio un'impostazione differente, altrimenti si fatica a introdurre degli elementi che comunque il contesto non favorisce, anche il contesto organizzativo non favorisce. Noi possiamo fare questo, possiamo fare anche un'altra cosa che io credo nella discussione che stiamo avendo sia centrale, è stata già accennata, ed è il tema dell'informazione. È assolutamente centrale che il paziente riceva un'informazione corretta, trasparente, possibilmente comprensibile, e lo dico perché non è affatto facile farlo, no. Ma io penso che solo una persona correttamente informata possa poi decidere insieme a chi la cura del proprio destino di trattamento, di vita. E la responsabilità dei medici, dottoressa Luini, in questo caso è alta, bisogna bisogna metterlo da parte. Più che altro bisogna capire che siamo tanto più bravi, tanto più efficaci e quanto più ci facciamo capire, che non significa abbandonare il medichese, significa però usare gli strumenti che abbiamo per farci capire. L'informazione non arriva a destinazione se chi abbiamo davanti non capisce, e questo è importante. Allora, vogliamo salutare il professor Vago, rettore dell'Università di Milano, darci appuntamento a lunedì, Uniti per i Malati, un convegno aperto al pubblico, vero rettore? Certamente, ci aspettiamo anche una bella partecipazione. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie. Buongiorno. Grazie, buona giornata. E a proposito peraltro di parole chiare, volevo chiarire una cosa ad alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Hanno subito approfittato, tra virgolette, del fatto che l'avvocato Falasca ha citato il termine mobbing. Non è questo quello di cui parliamo questa mattina, anche se magari in certe situazioni estreme, dico io, una situazione di mobbing si può determinare se magari qualcuno una situazione di difficoltà di salute la strumentalizza un po' per... come dire, esagerare magari con le richieste di permessi. Ci sono anche queste situazioni, perché le dobbiamo ammettere, no? Certo. Non è questo l'argomento. Il tema è quando la situazione sul posto di lavoro diventa difficile per tutti, per la persona che è malata e per il datore di lavoro che deve gestire ovviamente questa situazione e ha tutte le difficoltà del caso, perché magari deve chiedere una sostituzione, mantenere il posto di lavoro alla persona che si deve necessariamente assentare, per cui implicazioni economiche oltre che emotive che naturalmente devono essere tenute in considerazione. Fra un po' li affrontiamo con l'avvocato Falasca. Sono stata chiara? Chiarissima. Speriamo. Chiarissima. Andiamo a Clara da Modena, prima di andare a sentire i mercati. Clara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Benvenuta Clara. Buongiorno, io volevo parlare del fatto che io sono stata in cura per 2 anni da un ortopedico di Modena, il quale ha cercato di curarmi per un problema che aveva una caviglia gravissimo. A un certo punto ha deciso mi ha mandato dal suo professore, il quale mi ha visitata, e mi ha operata a, non posso dire dove, sì, uno degli interventi più difficili, perché una protesi di caviglia viene fatta da pochissimi professori. Il mio ortopedico non solo mi ha seguita durante il percorso iniziale, ma è venuto, ha assistito all'intervento, ed il professore che mi ha operata mi ha dato la mail e io posso chiamarlo in qualunque momento. Ormai è passato quasi un anno, io gli mando dei messaggi e lui, che pure è un personaggio importantissimo, mi risponde regolarmente, pur essendo una persona qualunque, non sono un personaggio particolare. Io posso solo parlare, dire bene. Lei è una persona speciale, perché ogni persona, Clara, è speciale, e io credo che per ogni medico ogni paziente sia innanzitutto una persona che sta affrontando quella malattia, e quindi sia una persona da sostenere, aiutare. Clara diceva mi ha lasciato la mail, quindi lei non è una persona qualunque, la sua storia? La sua storia merita naturalmente di avere un riconoscimento da parte di Cuore Denari, per cui Clara, se lei è contenta, noi le mandiamo, guardi, sta facendo la dedica per lei, la dottoressa Luini, il suo libro Il male dentro, bel romanzo, grazie, molto bello. Molto, perché è una cosa bellissima. È una lettrice, Clara. Ottimo. Sono vecchia, ma sono una storia, sono da vecchia, 110 sono una lode. Persona qualunque, non ci piace questi aggettivi, no, con cui si definisce, Clara, mi raccomando. Diciamo che i problemi di salute li ho, però la testa mi funziona ancora benissimo. Bene, allora come si dice in gamba. Esatto. Grazie Clara. Grazie, un altro ascoltatore ci scrive al 349-238-6666, Ergis da Bologna. Ottimo rapporto con la sua azienda, la cita. Ho seguito la mamma per tutto il tempo dell'intervento, il post operatorio, poi tutto il necessario per cambio turno e permessi per il trattamento radio e chemio, e ora trasferimento perché vicino casa. Per cui, avvocato Falasca, non sono poi tutti così cattivi, insomma, è così in difficoltà i datori di lavoro quando devono, come dicevamo prima, gestire. Sì, diciamo che la legge li aiuta a essere buoni, perché diciamo abbiamo una normativa protettiva che funziona abbastanza bene, nel senso che ci sono tutte le situazioni di malattia con una certa gravità, o propria o dei propri congiunti, sono danno diritto a permessi, poi se volete ne parliamo meglio. Certamente, dopo. Faremo. Quindi diciamo le aziende sono aiutate ad essere buone perché c'è questa normativa. Devo dire la verità, purtroppo ci sono anche molti abusi, e quindi questo non agevola poi la ricerca del punto di mediazione, perché negli ultimi anni più volte si è parlato proprio di rivedere queste tutele, perché tanti se ne approfittano. E quindi abbiamo... Dal punto di vista del lavoratore, dice lei. Esatto, dal punto di vista del lavoratore. C'era poi, per esempio, un caso, poi magari lo raccontiamo nel corso della trasmissione, devo andare già ai mercati, mannaggia, il tema della 104, quindi queste tre giornate di permesso mensili che si possono prendere, c'è chi le interpreta proprio come vuole, un'ora al giorno, due ore al giorno, allora lì bisogna effettivamente capire quando anche l'abuso avviene dall'altra parte. Però noi vorremmo parlare di chi invece ne ha realmente bisogno, questi strumenti non li conosce, glieli indicheremo tutti tra poco. Cuore e denari. Per le prossime 72 ore a ciascuno di voi sarà assegnata una particolare malattia. Dormirete in letti di ospedale e mangerete il vitto dell'ospedale. Il vitto dell'ospedale. E sarete sottoposti agli opportuni esami. Esami che vi troverete un giorno a prescrivere. Prego, prego, avanti. Ora non siete più dottori, siete semplici pazienti. Da un medico un uomo, ritorniamo al tema che vogliamo affrontare insieme a voi oggi e ai nostri esperti, la relazione tra medico e paziente, una relazione che si sta modificando, si sta passando dal rapporto paternalistico, il medico che diceva al paziente che cosa doveva fare, ad un rapporto, ad una relazione in cui il paziente diventa informato, è una relazione condivisa, ciascuno dei due attori ha dei diritti e dei doveri, ne parliamo oggi, vi stiamo chiedendo di raccontarci la vostra esperienza. Ripensavo alla trasmissione che abbiamo fatto ieri sulla sharing economy, oggi hai visto Perfetto. Condivisione di responsabilità in questa relazione, tra virgolette, scusami se ti ho interrotto. Mi è venuto questo flash pensando a ieri. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare. Come persone con malattie, come pazienti, dottoressa Luini, noi siamo molto critici nei confronti del curante, spesso perché a lui ci aggrappiamo abbiamo a lui, no? È lui che ci fa una diagnosi, che ci accompagna. Sì, e abbiamo aspettative molto alte. Sì, sono alte, quasi in alcuni casi, sì. Lei ne parla nel suo libro Il male dentro, sì. Che è proprio ambientato in un istituto di cura, in un istituto di oncologico. Sì. Il medico diventa una sorta di supereroe, no? A cui, che ti deve curare, sì. Supportare, consigliare, coccolare. Il medico è un uomo. Il medico è... E noi anche però, sì. E noi come pazienti siamo persone, dottoressa Luini. Sì, noi siamo persone e credo che essere stato paziente spesso aiuti a ricordarsi che siamo persone e che le aspettative che ogni tanto nutriamo nei confronti dei medici sono un po' fuoricentro, un po' eccessive, oppure le aspettative reciproche. Medico-paziente sono esagerate o fuori centro? Tutto secondo me si fonda su aspettative. Cosa ci aspettiamo e cosa vogliamo? È chiaro che una situazione di malattia ci fa pensare da un lato che siamo molto deboli, ma dall'altro che abbiamo più diritti rispetto al normale. E qui può scattare il problema. Dal punto di vista del medico, la voglia di garantire più diritti c'è, o almeno ci si augura che ci sia, però si ha anche la coscienza del limite. E il limite è da tenere sempre in considerazione. Penso che sia, come dire, una immagine, una considerazione che si può trasmettere anche alla questione del rapporto con il mondo del lavoro, certo, no? Certo. Avvocato Falasca, che ne dice? Poi sentiamo alcune testimonianze. C'è Renato da Vicenza che è proprio, possiamo oggi eleggerlo, l'ascoltatore di Cuore e Denari, perché ci raccontano situazione di salute e come si è trasferita anche nell'ambiente di lavoro. Però quello che diceva la dottoressa Luini è calzante anche per le problematiche sul lavoro, no? Beh sì, la malattia ha sempre un impatto. Sul lavoro. Purtroppo c'è un primo impatto che è quello meno scontato, che è quello che si ha sui colleghi e sul datore di lavoro, inteso come organizzazione aziendale. Però quando diceva avere delle aspettative sbagliate, per esempio anche in relazione ai colleghi e al datore di lavoro, no? Può esserci anche questo problema. Io sono malato, magari ho un problema grande e mi aspetto che si scateni, non so, una situazione di solidarietà, che tutti siano disponibili a lasciarmi prendere permessi, tutto quello di cui ho bisogno. È un'aspettativa un pochino esagerata? Ma no, cioè, dipende ovviamente dalle situazioni. Io vedo che di solito la malattia crea problemi quando non c'è una situazione di chiarezza, cioè quando non viene comunicata con chiarezza e quando anche dalla parte del datore di lavoro non viene detto con chiarezza cosa ci si aspetta dal dipendente. E ovviamente se un dipendente ha una patologia molto grave e ci si aspetta che lui raggiunga ogni mese i suoi obiettivi di fatturato, pensiamo a un agente di vendita o quant'altro, è chiaro che la situazione parte male e andrà a peggiorare. E in alcuni casi dove invece ci si è parlati in maniera franca sin dall'inizio, io ho gestito una situazione drammatica in cui un dirigente negli anni ha avuto un peggioramento molto forte di una malattia degenerativa che non sto qui a citare, ma insomma, però da subito aveva messo in chiaro con l'azienda quali erano le sue possibilità, le sue aspettative. L'azienda l'ha dotato di strumenti per lavorare da casa, con un computer, fare il telelavoro, e per anni il rapporto è continuato bene. Quindi credo che il problema della malattia sia il comunicare le aspettative reciproche. E ovvio poi le reazioni dei colleghi, queste non le possiamo gestire e non le possiamo prevedere. Quello che mi preoccupa di più però è capire quanto il malato si sa adattare alla sua situazione e quanto il datore di lavoro sa capire le esigenze del malato, perché se non si capisce subito che c'è un nuovo confine si va a sbattere. E purtroppo ci sono casi molto molto traumatici e drammatici, certo, e magari continueremo a raccontarli fra poco. Le stesse dinamiche, dottoressa Mazzocco, ci sono tra il medico, il curante o i curanti, ma allarghiamo, infermieri, tecnici, tutto quell'universo che si occupa della malattia, e la persona paziente. È fondamentale la chiarezza, è giusto che il paziente sia informato. Voi state lavorando formando proprio i medici, che cosa state facendo? Stiamo facendo formazione, ma soprattutto stiamo collaborando in un progetto europeo per cercare di aiutare il medico, che a volte viene visto come un mostro che non ascolta, non capisce. Un intervento di un ascoltatore diceva: i medici trattano i pazienti come numeri. Sì, è un SMS che le ho letto intanto che facevamo la pausa. Sì, sono diversi, devo dire, gli ascoltatori che puntano un po' su questo aspetto. Ecco, diciamo che i medici ci provano, il problema è che c'è una pressione temporale anche per i medici che impedisce ai curanti di comprendere bene chi hanno di fronte, e di fronte hanno, come diceva la dottoressa Luini, sono una persona con bisogni, valori, delle reazioni psicologiche che può, sì, che alla può essere spaventato, arrabbiato. Esattamente. Può essere depresso, ansioso, ecco, cioè, ci sono tanti profili di pazienti. Tanti profili di pazienti, e queste condizioni impediscono la comprensione delle informazioni che il medico non è detto dia in modo sbagliato o in modo non comprensibile. Quindi noi cerchiamo di aiutare da un lato i medici a capire chi hanno di fronte. Ma attraverso come fate uno strumento a farglielo capire? Allora, stiamo realizzando uno strumento che in qualche modo, che nell'immediato, subito prima della visita con il paziente, il medico riceve un profilo attraverso un questionario, un profilo del paziente con le sue caratteristiche di stato, quindi di quel momento specifico, caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive. E a questo profilo vengono affiancate delle linee guida per migliorare la comunicazione con il paziente. Perché ad esempio io credo che un paziente depresso, dottoressa Luini, difficilmente seguirà la terapia, difficilmente affronterà i controlli, sarà un paziente più complicato da accompagnare. La relazione diventa un po' più complicata, bisogna capire, intuire che sia depresso, e forse anche perché a me è successo, una signora non seguiva le terapie, a un certo punto ho capito che era depressa perché aveva recentemente perso un figlio, allora aveva un motivo molto valido per non nutrire molto interesse per le terapie. Queste cose però il medico le deve capire, le deve indagare, quindi deve chiedere, deve ascoltare e deve andare anche al di là delle parole, deve guardare chi ha davanti, osservare il paziente, capirlo. Questo secondo me è fondamentale. Se posso dire una cosa sui pazienti sono numeri, nasce da un errore fondamentale fatto in tanti ospedali, spero che questo sia stato corretto, invece di dire il cognome o il nome del paziente. Sì, Mario Rossi, Nicoletta Carbone. Ecco, letto 12, letto 14, scusi, buongiorno, lei è il letto 2, che è una cosa agghiacciante. Io spero che non esista più da nessuna parte. Quindi chi dice che il paziente è un numero, in realtà, secondo me, ha torto dal punto di vista del reale interesse del medico e degli infermieri nei confronti dei pazienti, ma ha ragione, perché per un po' c'è stata questa cattivissima, orrenda abitudine di dire letto 1, letto 2, letto 14. Vedo che l'avvocato Falasca... Microfono 4, tra l'altro. Sì. No, stavo pensando che probabilmente in questo popolo di giuristi, giuristi di seconda mano che siamo noi, qualcuno avrà adombrato qualche problema di privacy o quant'altro per dire, per mettere in piedi questa sciocchezza, quando invece non c'è affatto un problema di privacy. Mi veniva da scuotere la testa, perché immaginavo che la colpa è anche vostra. Sì, assolutamente, io mi autodenuncio. In realtà anche degli psicologi è colpa, anche colpa un po' di tutti, anche dei conduttori radiofonici. Ma questo sì, perché un ascoltatore ci ha scritto che internet ha rovinato la relazione tra medico e paziente, come state facendo voi oggi, e quindi siamo potenti come internet. Cosa abbiamo fatto di così grave? Boh, prendiamoci una pausa e ci pensiamo. Dai. Cuore e denari. Ogni medico ha un modo suo di relazionarsi ai pazienti. Per Turk l'efficienza era tutto. Elliot preferiva un approccio più personale. Shannon, amica mia, come va? So che non dovrei chiamare una paziente amica mia, ma lei lo adora, quindi... È vero, che posso farci? Questa è una nota serie televisiva, peraltro ce ne sono moltissime sui medici, e ci piacciono anche molto, per la verità. E lì sembra che sia tutto idilliaco nel rapporto tra medico e paziente, ma lo è anche nella realtà, come dire, no Nicoletta? Certo. Spesso e volentieri. Allora direi di aprire a questo punto le nostre porte, le porte di Cuore e Denari ai nostri ascoltatori. Moltissime le testimonianze che ci stanno arrivando, stamattina faremo veramente difficoltà, però cominciamo con Renato da Vicenza, perché lo abbiamo eletto, l'ascoltatore di stamattina di Cuore e Denari, perché ci piace così di primo acchitto la sua testimonianza. Renato. Renato. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Ci dica. Allora, io ho avuto un infarto un po' di anni fa, e mentre non posso assolutamente lamentarmi dal punto di vista di trattamento da parte dei medici, tranne in qualche caso che però mi ribellavo proprio all'etichettatura paziente numero. Difatti erano frequenti gli scontri con un medico. Ah, uno in particolare. No, poi ha detto, uno. Non mi posso lamentare del rapporto, ma era frequente lo scontro. Ottimo, Renato. Beh, perché ci sono anche delle antipatie, non è che tutti i medici certo, giustamente. Ci piacciono. Io non faccio uno standard, tutti i medici sono cattivi, buoni, eccetera. No, ma sono trovati, persone. Ne ho trovati di estremamente sciocchi, diciamo. Difatti gli ricordavo, guardate che io sono una persona, non sono un numero, non siamo ad Auschwitz. E là. Bello pesantino, Renato. E comunque, vabbè, da 0 a 10 che voto dà alla relazione con il medico, con i suoi medici? Dato che lei poi passa medico, al datore di lavoro. Il medico gli do un 10, anche perché mi conosce e quindi non indugia ad atteggiamenti, diciamo, paternalistici, mammistici, eccetera. Okay. Quando non capisco glielo dico chiaramente, dottore, non ho capito nulla, mi rispieghi. Perfetto, bravo. Questa è già una cosa che dovremmo fare tutti. Però, al lavoro? Renato, al lavoro? Cominciano le dolenti note, perché io lavoro in un istituto di vigilanza qui del Triveneto. Sì, Renato, deve essere un pochino più rapido. Ok. Grazie. Sono andato in commissione medica provinciale per farmi riconoscere l'invalidità lavorativa. Sì. Ho presentato i certificati e lì si è scatenata, anzi già prima ancora dell'intervento si era scatenata una guerra nei miei confronti. Per mettermi nelle condizioni o di licenziarmi o di essere licenziato. Adesso com'è, Renato, la situazione? Qual è? Beh, chi ha vinto? Beh, direi io. Bravo, Renato. Avvocato Falasca, sono frequenti queste situazioni? Diciamo che sono frequenti quando il tipo di malattia costringe la persona a cambiare le sue mansioni. Allora, in quel caso il datore di lavoro va un po' in allarme. Se la malattia non impatta sull'attività, quindi magari c'è un'attività di natura intellettuale e c'è un infortunio meramente fisico, c'è maggiore tolleranza. Quando invece, io facevo prima l'esempio del commerciale, ma è uguale. Vigilante, turni notturni magari un po' faticosi, cioè, lì poi tra l'altro cambiare mansione, il turno è quello, la vigilanza è quello, magari non è che si abbia uno spettro di possibilità molto e ampio. Qui, purtroppo parlavo prima della chiarezza, io dico che qui più che le norme di legge servirebbe il buon senso. Se c'è un problema, secondo me è il caso di parlarne, piuttosto che non conosco la situazione, ma se ci sono stati questi comportamenti sono gravissimi, perché non si può fare la guerra a un dipendente perché si è ammalato contro la sua volontà. Purtroppo però succede. Certo, succede. Le faccio fare solo una parentesi, perché non vorrei poi dimenticarmela nel resto della nostra trasmissione. Jobs Act, la riforma del lavoro di cui si sta discutendo in questo momento, introduce il concetto, l'istituto, non saprei come definirlo, delle ferie solidali. Ne abbiamo letto anche qualche settimana fa sui giornali per un caso concreto che si è verificato in un'azienda in cui tutti i colleghi si sono messi insieme e hanno donato le loro ferie ad una collega che era in difficoltà, aveva terminato tutti i permessi per un problema di salute, per l'appunto. Adesso addirittura viene istituzionalizzata questa modalità. Sì, il caso concreto è bellissimo, cioè praticamente sapete che c'è questa tagliola del periodo di comporto, cioè posso assentarmi per malattia, ma se supero poi il numero di giorni sono licenziabili, e questa persona era arrivata sull'orlo, diciamo, del licenziamento. Quant'è tra l'altro questo periodo? Il periodo dipende, di comporto, pensa anche che termine. Esatto, dipende dai settori, va dai 3 mesi ai 2 anni a seconda del settore, delle tipologie, diciamo di media tra i 6 e i 12 mesi. Stava lì per essere licenziata, gli altri colleghi hanno ceduto le ferie, in questo caso è servito il consenso dell'azienda che è stata molto disponibile. La novità che vuole introdurre il Jobs Act è renderla direttamente gestibile dai lavoratori senza il consenso dell'azienda. È una cosa veramente bella e interessante. Innovativa, sì. E la solidarietà. Esatto. Seguivo la mia preferita, che è Lilli Gruber, la dottoressa Luini, lo sai, ieri in un'intervista magnifica a Stefano Rodotà, che ha scritto un libro proprio sulla solidarietà, che domani vado a comprarmi, voglio leggere, perché poi facciamo una puntata sulla volentieri. Solidarietà con Stefano Rodotà, che è veramente quello che ci aiuterà a sopravvivere, non solo, ma a vivere meglio, no? E quindi quindi ben vengano questi esempi, come ci ha raccontato l'avvocato. Se ne avete altri, 800 24 00 24, dove andiamo? Nelle Marche, naturalmente. Da Maria, da chi siamo, ci chiama sempre da... nelle Marche noi. Io ormai quest'estate vado lì. Ma però diciamolo che non sono io che scelgo le telefonate, ma sono i ragazzi in redazione. Però diciamo, hanno avuto l'imprinting. Marche precedenza. No, sto scherzando. Maria, benvenuta. Da Pesaro Urbino, benvenuta. Buongiorno. Allora, io ho avuto un tumore allo stomaco, lavoravo e praticamente mi sono operata subito e sono tornata al lavoro dopo circa un mese. L'atteggiamento del mio datore di lavoro è completamente cambiato, datrice, donna. Praticamente ha cominciato a farmi fare dei lavori anche pesanti, c'era su scatoloni, io lavoravo comunque in un negozio di abbigliamento e tutti i giorni c'era qualcosa che non andava bene, tutti i giorni, arrivata al punto che avevo anche già terrore di andare a lavorare. Immaginiamo, Maria. Allora, dopo questo tipo di operazione si dimagrisce moltissimo e è normale. Praticamente le persone, le clienti mi chiedevano, io cercavo di non parlare molto della mia malattia perché il negozio non sta bene e quindi cercavo, insomma, nel mio piccolo di non ampliare la cosa, e però mi stavo rendendo conto di non mangiare più. Io sono scivolata in un'anoressia, praticamente mi sono accorta praticamente di dimagrire proprio più del dovuto e di avere una debolezza psicologica non mia, certo, mi ritengo una persona abbastanza equilibrata, lavoravo ormai. Maria, purtroppo dobbiamo chiudere. Oggi la sua situazione qual è? In 10 secondi. Oggi la mia situazione è di ammalata, perché comunque purtroppo continuo a star male, però io mi sono licenziata, mi sono appoggiata a una psicologa e fortunatamente mentalmente sto un pochino meglio. Certo. Però ancora ce l'ho molto con questa persona. Direi. Intanto noi le regaliamo il libro, Maria, glielo mandiamo, Il maledentro di Maria Giovanna con Luini. Autografo, con dedica della dottoressa Luini, poi... si impara anche a essere pazienti. Esatto. In questo caso lo commentiamo dopo. Cuore e denari. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. Essere licenziati a causa di una malattia, rapporto del malato sia nel mondo del lavoro, nell'ambiente di lavoro, ma anche con il proprio medico. Questa mattina una relazione davvero a oltre i 360 gradi, l'abbiamo stabilita, no Nicoletta? Adesso abbiamo ripreso, appunto, perché vorremmo commentare un caso che abbiamo sentito prima della nostra pausa, quello che è successo all'ascoltatrice da Pesaro Urbino, una impiegata appunto in un negozio, una grave malattia, operata allo stomaco e grandi difficoltà appunto nell'ambiente di lavoro, fino al punto che si è dovuta dimettere e licenziare. Adesso sta ripristinando del suo datore di lavoro. Che le... Un commento veloce all'avvocato Falasca lo dobbiamo su questo caso, poi magari ci racconti anche però quando è il lavoratore un po' da approfittare di queste situazioni, perché non dobbiamo sempre dipingere il datore di lavoro come certo, quello che... E sarà un'occasione anche per la dottoressa Mazzocco per raccontarci come si diventa pazienti informati e competenti. Ottimo. Beh certo, il caso che è stato raccontato è sconcertante, cioè ci sono tutti i presupposti per fare una causa per risarcimento del danno e forse anche per agire in sede penale. Che è l'ultima cosa, quindi, peraltro, alla quale si pensa quando tu stai in una situazione di quel tipo grave già di malattia, no? Sì, purtroppo, tra l'altro, l'esperienza mi dice che queste cause non ridanno la serenità perduta. Purtroppo a volte c'è anche questo problema. Primo. E poi come ti ripresenti in un altro posto di lavoro? Lo so, ma questo si dipende dall'ambiente in cui ci si trova. Se è un ambiente piccolo, sicuramente si viene a sapere. Però certo, quel tipo di aggressività a me è spiaciuto sentire che poi sia andata a finire in quel modo, perché non ha avuto sanzione, quindi quel datore di lavoro rifarà le stesse cose con un'altra persona. È anche vero che ieri, preparando questa puntata, leggevamo, abbiamo trovato questo caso sul Sole 24 Ore, sfogliando norme e tributi, abbiamo trovato la storia di questo macellaio di un supermercato che, assente per malattia dal suo posto di lavoro, svolgeva le stesse mansioni in un'altra impresa. Queste storie fanno davvero indignare, perché poi ecco, chi ha una situazione veramente seria, reale, la racconta in totale semplicità, poi ecco, ne paga le conseguenze. Allora, Giovanna dalla provincia di Cremona, Federica da Vicenza ed Emanuele dalla provincia di Milano, un'infornata tra virgolette di ascoltatori tra poco. Ma dottoressa, abbiamo anche il paziente, la persona con malattia deve lavorare per diventare competente ed informata e per giocare la sua partita con il curante. Giusto, è proprio una partita non può essere giocata da sole, ma assieme a tutti quelli che ci stanno intorno, che siano medici, clinici o familiari. Renato, l'ascoltatore di poco fa, è un buon esempio per mostrare come si diventa competenti. Renato diceva: se non capisco io chiedo, quindi non bisogna vergognarsi di chiedere al medico, di dire scusi non ho capito, anche perché uno studio che stiamo facendo con il gruppo di psicologi che lavorano in NEO diretto dalla professoressa Pravettoni, uno studio ha dimostrato come molte denunce per malpractice siano dovute ad una malcomprensione delle informazioni, nonostante un consenso informato firmato. Sembra un bisticcio di parole, sì, esatto, ma l'avevo detto correttamente, infatti. Quindi il paziente deve essere educato a comprendere quali sono i suoi limiti emotivi, psicologici, cognitivi, non perché abbia delle sia povero cognitivamente, ma a volte le emozioni impediscono di comprendere le informazioni. Certo. Ora, l'abbiamo detto più volte in questa giornata, la chiarezza prima di tutto, e lì deve essere responsabile il paziente, chiedendo supporto e aiuto anche nella comprensione delle informazioni. Ai medici, agli infermieri, agli psicologi, senza aver paura di essere etichettato come pazzo, ad esempio, se si chiede supporto psicologico per gestire, certo, quella parte emotiva e psicologica, che è molto, per molti pazienti, almeno per i pazienti che io vedo all'Istituto Europeo di Oncologia, il primo step per tirar fuori le risorse e combattere e riuscire a gestire la malattia. Andiamo ai nostri ascoltatori? Volentieri, allora. Partiamo da Giovanna? Cominciamo dall'inizio, sì, Giovanna. Dalla provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Scusate, sono un po' emozionata. Ha ragione Giovanna, anch'io sarei emozionata, però ce la facciamo. A telefonare a te stessa. Sì, no, a telefonare in una radio, io mi emozionerei sì, un infatti, po'. Sì, infatti, è vero, no? Non ci abbiamo mai, non ci penso mai io a questa. Giovanna, parte. Buongiorno allora. Volevo dire il mio parere. Io sono un operatore sociosanitario, lavoro in un ospedale di riabilitazione geriatrica. Sì. A monte di tutto, secondo me, c'è un problema. Questo lavoro, infermieri, dottori, è un lavoro che deve essere fatto come una missione. Se tu la senti tale, lavori bene. Se tu invece questo lavoro lo scegli perché non hai un lavoro e vuoi lo stipendio alla fine del mese, forse non funziona. Un po' tutto, sì. Io lo vedo, e lo vedo ultimamente sulle persone nuove che arrivano, perché io ho 50 anni, questo lavoro l'ho scelto e potrei fare anche 12 ore, 13 ore perché mi piace. Invece ultimamente le ragazze vengono perché non trovano un lavoro, fanno questo lavoro ma non vedono l'ora di scappare a casa. Anche io penso che rovini tutto questo, sia per l'infermiere ma anche forse per i medici. Giovanna, come a dire, la passione si sente. Vedo che la dottoressa Luini ha già aperto il libro con la dedica, per cui sta dedicando per Giovanna. Dottoressa sì. Luini, beh, sì, è vero, sono... per i medici, è vero per gli operatori, sì, è vero, sì. Cioè, sono molto più che d'accordo, è esattamente la mia motivazione, la motivazione di tanti colleghi infermieri e medici nell'essere infermieri e medici. È una cosa che oggi è scomoda da dire perché siamo tutti orientati verso tecnologia, organizzazione, aziende, non si chiamano più ospedali ma aziende. C'è il cuore è ciò che ci fa lavorare, il cuore ci spinge a migliorarci, a studiare, anche a renderci migliori nella relazione, però è il cuore, e se non c'è quello allora è un problema. Emanuele credo che l'abbia trovato nell'ambiente di lavoro, ci facciamo raccontare la sua storia. Emanuele, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei Emanuele. Allora, la mia storia è un po' particolare, nel senso che io non sono affetto da una malattia, ma 11 anni fa ho avuto un incidente in moto e sono rimasto poi in carrozzina in maniera definitiva con una lesione a C5, quindi tetraplegico. Sì. La mia fortuna è stata che ho avuto la fortuna di incontrare un datore di lavoro capace di assecondare quelli che erano anche i miei desideri di carriera, e quindi non confinarmi. Questo vuole essere anche un messaggio un po' ai disabili che ci sono. Sì, la ringraziamo molto Emanuele di questo. Non confinarsi o autoconfinarsi a lavori di di secondo piano, comunque. Sì, solo perché magari si appartiene alla, propria, alla sì. cosiddetta categoria protetta, no, Emanuele, sì. che ci dà l'opportunità di avere comunque un posto di lavoro, però le dice, insomma, spingiamoci oltre, abbiamo delle nostre ambizioni, giustamente, quindi mettiamole in campo. Ho potuto incontrare una persona che ha capito questa mia ambizione, e anche se io sono un tetraplegico, oggi faccio un lavoro che per un tetraplegico potrebbe sembrare molto, molto strano, ma faccio il rappresentante. Quindi sono tutto il giorno in macchina, carico e scarico la carrozza. E certo, ma d'altronde la voce le funziona benissimo, Emanuele, mi sembra che riesca ad articolare concetti con grande padronanza, per cui saprà fare il suo lavoro sicuramente molto bene. Grazie, una bella storia, una storia che ci ha toccato il cuore. I libri della dottoressa Luini si moltiplicano sarebbero così. Finiti, ma un altro libro, certo, Emanuele, sì. della provincia di Milano, che ci ha regalato la sua esperienza e ha mandato un messaggio, secondo me, che certo. serve, Emanuele diceva, ai disabili che ci stanno ascoltando. Io credo che serve a tutte le persone che hanno una disabilità, che può essere anche una disabilità emotiva, emozionale. Avvocato? No, io darei anche un quinto libro, ma adesso non voglio. Sì, perché c'è al datore di lavoro, esatto, è il datore di lavoro, perché qua merita veramente. No, quello un dell'avvocato Farasca si chiama divieto di assumere. E magari può anche esserci il caso in cui proprio per una disabilità no, sì. un'azienda si trova in difficoltà a dare una chance di lavoro a chi si trova in questa situazione. Esatto. Qui il datore di lavoro ha dimostrato quello che dicevamo prima, che bisogna, diciamo, avere anche un po' di apertura mentale, cioè fare tetraplegico e fai il rappresentante, ma è possibile, cioè basta organizzarsi, si sarà organizzato con una macchina adatta, quindi ha dimostrato veramente un... Anticipo, Nicoletta, che questo sarà un tema che noi affronteremo la settimana prossima a sì. Matching, perché saremo presenti con gli stand di Radio 24, con gli studi, a questa iniziativa appunto dedicata al lavoro, alle imprese, e proprio affronteremo il tema del fare in modo che tutti possano andare ovunque. Barriere. Benissimo, martedì quindi sentiteci e seguiteci. Anche lunedì sentiteci, siamo continuate lì, però, diciamo, a chiamarci. Questo tema lo facciamo martedì. Sì. A chiamarci 800 24 00 24. Prima di andare da Federica volevo leggervi un messaggio che ci arriva da Morena. Tumore maligno al seno, dottoressa Luini, alla terza chemio minaccia di licenziamento, e questo lo dico all'avvocato Falasca. Mi sono messa in malattia, ho cercato altro lavoro, sono venuta via. Durante la mia assenza per malattia la mia posizione era occupata da altra impiegata, me sconosciuta. Ma durante l'assenza è normale e anche giusto che ci sia una sostituzione, lo prevede proprio la legge, cioè se c'è un dipendente che ha una malattia, il datore di lavoro può sostituirlo con un'altra persona, e quindi non ci vede nulla di male. E diciamo che su questo la normativa è abbastanza cinica, cioè da un tempo massimo, il cosiddetto, la parola è orrenda, non so da dove viene, il periodo di comporto, cioè noi abbiamo un tempo massimo, superato quello, come nel caso di cui parlavamo prima, l'azienda non è che deve, può licenziare. Esatto. Cioè, poi questo è il grado convincimento per cui debba. L'azienda, se vuole, può anche proseguire. Altrimenti o ci sono esperienze come le ferie solidali, oppure l'azienda può interrompere. Solo un secondo per dire, poi concludiamo con l'avvocato Falasca, perché abbiamo aperto la parentesi della 104. Brava. Per le persone che devono occuparsi di malati in casa e per questo motivo sono in difficoltà nel loro posto di lavoro, pur non essendo in prima persona malati. Sì, dottor Falasca l'ha chiamata. Vabbè. Allora, su questo voglio dire due cose. Il primo, che è una legge di estrema civiltà e sanziona un diritto sacrosanto, e quindi è una legge che dobbiamo tutti difendere e che deve essere applicata per bene. Purtroppo però, se oggi c'è un'area dove ci sono molti abusi, e purtroppo il campo della 104 è uno di questi, e quindi ci sono fenomeni assolutamente inaccettabili di permessi utilizzati in maniera abbastanza massiccia. D'altronde anche lì non vorrei aprire, però se c'è chi certifica queste situazioni, d'altronde poi il lavoratore ne approfitta. Dico. Sai cosa succede, Deborah? Anche scatta la caccia al parente da utilizzare per il permesso, quindi formalmente c'è il diritto, ma poi in realtà è questo. Purtroppo è un problema che, secondo me, affonda le radici nel nostro essere, nel nostro modo di vivere la cittadinanza, e quindi non è sulla 104. Cioè, è un po' un modus. Diciamo, abbiamo una normativa a volte scandinava, solo che poi quelli che la devono applicare sono un po' scandinava meno in termini di, come di dire, modernità, esatto, e di livello di tutela. Allora, da Udine ci arriva un messaggio. Sono una OS e credetemi, tanti pazienti si rivolgono a noi per interagire con i medici. Questo perché non osano chiedere, noi siamo tra gli infermieri e i medici. Quindi c'è un dottoressa, una sorta di figura che fa un po' da ponte. Lei si riferiva proprio all'importanza da parte del paziente di chiedere al medico quando non capisce, e a volte questo coraggio non c'è. No, forse perché il medico si trincera magari dietro il camice? O forse perché non ha tempo per tutti i pazienti? È possibile, le possibilità sono diverse. È importante però che il paziente riesca comunque a trovare qualcuno, un riferimento che gli permetta di arrivare dove vuole arrivare. Sarebbe l'obiettivo finale di tutti, paziente, clinici, operatori sanitari, psicologi, è creare un'interdisciplinarietà dove la comunicazione non trovi barriere o ostacoli, ma che trovi un canale comune attraverso il quale appunto riuscire a far arrivare le informazioni. Purtroppo sì, i pazienti sono molto timidi a volte, o troppo aggressivi o troppo timidi. In ogni caso perdono potere, e noi quello che vorremmo è ridare il potere al paziente in modo tale che non ci sia più questa difficoltà nel comunicare. Ma ben venga se comunque c'è una persona di riferimento che forse a volte non viene neanche ascoltata. Le OS come diciamo hanno un ruolo un po' forse a volte un po' squalificato da altri ruoli all'interno della struttura. Anche qui si potrebbe lavorare per dare importanza a tutti questi ruoli diversi e a dare voce, soprattutto voce al paziente, voce all'OS, a tutti i clinici. Concludiamo in bellezza. Sì, penso che stiamo andando verso la conclusione con la testimonianza di Federica da Vicenza, che salutiamo. Federica, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Sono molto contenta di parlare con voi perché vi ascolto tutte le mattine, perché faccio lavoro da casa, mi fate molta compagnia. Grazie. Beh, Federica, siamo contente. Allora, io 4 anni fa, 36 anni, mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Avevo due bambini molto piccoli e è stato per me una cosa incredibile, perché non sapevo neanche cosa fosse un linfoma, non sapevo neanche che esistesse. Ricordo le parole della dottoressa quando sono andata alla prima visita, che mi ha detto: lei ha un tumore maligno nel sangue. Guarda, mi sto commuovendo. Eh no, lo credo, mi si stringe il cuore, perché ci sono delle parole che arrivano che sono, ti spaccano. Ho trovato in questa dottoressa la mia salvatrice, perché è una persona che con franchezza, con semplicità e col sorriso mi ha aiutato in tutto il mio cammino. E ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta e sono qui a raccontarla a voi, e sono molto orgogliosa di questo. Grazie, grazie Federica, è una bella storia. Arriva una malattia di cui tu non conosci neanche l'esistenza, che ti cambia la vita, ma c'è una persona che ti dà questa notizia, ma ti dà anche la mano e ti accompagna, un braccio per accompagnarti e uscirne. Dottoressa Luini, lei di queste storie ne ha vissute tante? Sì, e sono anche, se posso dire, parte della bellezza della mia vita, non ovviamente con molto rispetto, lo dico per chi soffre per una malattia, ma perché mi insegnano ogni giorno il senso vero della vita. Mi fanno sentire che c'è qualcosa molto al di là di ciò che sono i nostri pensieri quotidiani, anche un po' banali, scusate. Allora, noi abbiamo terminato la puntata di oggi. È stata una puntata intensa e ci siete stati molto vicini, sono arrivate tantissime telefonate, tantissimi messaggi, continuate a scriverci, confrontiamoci, parliamo. Ci salutiamo. Vi auguriamo buon weekend, grazie a tutti i nostri ospiti. Noi naturalmente, sì, velocemente, la dottoressa vuole ricordare un sito internet? www.unitiperipazienti.it. Ottimo. È il convegno di cui abbiamo parlato questa mattina e di cui ha parlato il rettore dell'Università di Milano, e vi aspettiamo, è veramente molto bello, interessante, è gratuito e sarà una bella esperienza. Grazie. Buon weekend a tutti, a lunedì. Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Vi ha presentato Cuore e Denari.